Effetto Mondo. You know, our doctors get more money if somebody dies from COVID. You know that, right? Yeah. That's our president, recently saved by doctors, saying doctors want more COVID for money. Buongiorno Giulia Crivelli. Buongiorno. Cosa ci hai fatto sentire? Cosa succedeva? Trump che parla e il pubblico che dice sì, non nel ci senso sta. Che Trump e anche Biden, con modalità come sappiamo diverse, stanno facendo 3, 4, 5 comizi al giorno. Questo era quello in cui Donald Trump ha detto che i medici ci guadagnano a dichiarare una persona morta di COVID perché appunto guadagnano con quella diagnosi. C'è questa è una vera fake news, nel senso che il sistema, per quanto strano possa sembrare, il sistema americano prevede che i medici abbiano un sovrappiù di stipendio se somministrano più cure. Cioè, se tu entri in un ospedale e hai bisogno solo di medicinali e un esame obiettivo, il medico prende un tot. Se invece hai bisogno di interventi più articolati, ha un bonus in più. Viceversa, se muori non ha alcun bonus. Quindi questo è una sparata di Trump, che naturalmente sta cercando di come sappiamo di non sottolineare, di non far saltare fuori il fatto che giorno dopo giorno c'è un record di contagiati e un record di decessi per COVID negli Stati Uniti. Il confronto si sta facendo tesissimo. Il Washington Post spiega che l'FBI ha aperto un'inchiesta su questo episodio. Se ci pensate, è inquietante. A vedere le immagini, poi ancora di più. C'era un autobus della campagna elettorale Biden-Harris, di questi che trasportano i sostenitori, e faccio solo un piccolo inciso: è comunque interessante vedere quanto siano partecipate questi comizi, cioè, o comunque quanto la politica, naturalmente arrivata a un'elezione importante come questa, veda veramente il coinvolgimento delle persone. Quindi autobus di sostenitori di Biden-Harris viene circondato su un'autostrada da sostenitori prevalentemente in moto di Trump e mandato quasi fuori strada. E ripeto, l'FBI ha aperto un'inchiesta perché si è sfiorato l'incidente. E ancora più inquietante, lo spiega Washington Post, è che in un tweet, sapete che Trump fa circa 200 tweet al giorno, in questi giorni forse ancora di più, ha semplicemente twittato "I love Texas", mettendo sotto la foto dell'autobus spinto fuori dalla carreggiata da questi suoi sostenitori. Altri titoli in primo piano sui giornali? Ho trovato abbastanza interessante, ne abbiamo parlato settimana scorsa, sì, di questo rimbalzo che c'è stato nel terzo trimestre del prodotto interno lordo americano, naturalmente salutato con grande favore come segnale di una ripresa. Sulla prima pagina del Wall Street Journal di oggi, due foto: quella di un comizio Biden-Harris, persone distanziate con la mascherina, comizio di Donald Trump, persone non distanziate, la maggior parte di loro senza mascherina. E il titolo sotto è che i principali amministratori delegati, parliamo dell'amministratore delegato di Coca-Cola o di grandi banche, sono molto molto cauti nonostante, despite questo rebound. Ricordo che parliamo di un quotidiano che ancora adesso fa fatica, diciamo, a schierarsi per Biden, ospita alcuni interventi nella pagina degli editoriali molto chiaramente attribuibili a una persona e non alla linea del giornale, e però invece ha sempre sostenuto Trump. Quindi mettere questa notizia in prima pagina significa che anche per gli analisti del Wall Street Journal quel segnale del terzo trimestre non va preso come arriva la ripresa. Giornali europei, Giulia. No, non so se vuoi sentiamo, sì, questa voce di Michael Moore, il grande regista. Lui è del Michigan e dice: state molto attenti a prendere i sondaggi, perché secondo me nella vostra testa voi dovete pensare che il vantaggio di Biden è la metà di quello che dicono i sondaggi. Ma sentiamo le sue parole. I think the safe thing to do, this is not scientific, I'm just saying from my experience of being a Michigander, whatever they're saying the Biden lead is, cut it in half right now in your head. Dice appunto per non, anche sapete che il Michigan è uno stato molto importante per quella questione dei voti elettorali. Ultimissima segnalazione, la questione della Pennsylvania. In Pennsylvania Trump, che è uno stato importantissimo perché è il terzo stato più popoloso dell'America, quindi ha anche più un maggior numero di quei electoral votes, sapete che bisogna arrivare a 270. Nella scorsa elezione Trump si è aggiudicato quello stato per circa 45.000 voti, quindi per un niente. Ha chiesto alla Corte Suprema che il conteggio delle schede si fermasse nel momento in cui chiudono le urne. Se questo fosse successo, lo sottolinea il New York Times, nel 2016, lui probabilmente non avrebbe avuto quei 45.000 voti. Questo è ancora una volta per, ed è una cosa che forse gli ascoltatori lo capiscono, mi inquieta un po', Trump cerca di piegare le regole a suo vantaggio, quindi questo naturalmente preoccupa molto anche tanti ma analisti. Ma questa richiesta è andata a buon fine? No. No. Però ne farà altri in altri stati, cioè è come se la battaglia... Dov'è che è stato concesso invece 9 giorni in Texas? Più di... In Texas. E anche in un altro stato, poi magari domani facciamo un po' un recap, sì. però l'esito delle elezioni si sta già giocando nei tribunali, se ci pensate ancora prima del famoso Big Tuesday è abbastanza indicativo di quanto strana sia questa elezione. Ok, domani promesso, facciamo un punto, perché poi naturalmente se, dopo diciamo passerà alla storia tutto questo. Titoli europei, dicevamo, il giornale europeo. Financial Times ha una foto di Trump in prima pagina, tra l'altro Trump, probabilmente l'hai visto anche tu nelle agenzie, sempre in Florida, davanti a una folla che urlava fire Fauci, cioè licenza Fauci, lui non ha esattamente detto così, però ha detto I'll think about it after the election, ci penserò dopo le elezioni. Il Financial Times ha una foto di Trump e subito sotto anche l'outlook dell'Eurozona, che diventa più fosco per naturalmente i lockdown. E a proposito di lockdown, il paese diciamo più preoccupato è il Regno Unito, il Daily Mail, a nightmare without end, quindi un incubo senza fine. E poi c'è questo scontro ormai palese tra Boris Johnson e Michael Gove, che è il suo ministro di gabinetto, cioè l'uomo più vicino a lui, è quasi un vice Boris Johnson. E siccome ha detto chiaramente in televisione questo lockdown potrebbe andare ben oltre Natale, andare nel 2021, Boris Johnson questo non l'aveva mai detto, si profila, se vi suona familiare, uno scontro all'interno del governo tra membri che in realtà dovrebbero almeno apparentemente mostrare un certo accordo. Noi dobbiamo solo aspettare ancora qualche ora per sapere cosa ci attenderà invece nei prossimi giorni con il nuovo DPCM. Giulia, grazie, noi ci risentiamo domani con te per la puntata di oggi. È tutto, Pietro La Corte in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Vi lascio ad hashtag Autotrasporti. Ciao, buona giornata.